di Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti, da Valentina Furlanetto, bentornati ai figli di Enea. Io ho il piacere questa sera di avere un dirigente sindacale, una persona che si sta dando da fare in questi anni moltissimo per quanto riguarda il lavoro, il sindacalismo, i diritti dei braccianti, ormai anche un volto televisivo noto, Abubakar Soumahoro, benvenuto. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Italiano di origine della Costa d'Avorio, lavora per l'USB, ci siamo incontrati, lo ricordavamo prima di questa registrazione della puntata, quando purtroppo morì un anno e mezzo fa un lavoratore a Rosarno, mi riferisco a Soumaila Sakho. 10 anni fa, lo ricordiamo, la prima rivolta il 7 gennaio 2010, quando alcuni sconosciuti spararono diversi colpi con armi ad aria compressa su 3 immigrati di ritorno dai campi, e quella sera ci fu una forte protesta, la prima forse protesta dei braccianti dell'area. Le indagini fecero emergere anche il ruolo dell''ndrangheta nelle aggressioni agli immigrati. 10 anni dopo però poco è cambiato, è così? 10 anni dopo quello che possiamo constatare è una condizione di vulnerabilità lavorativa, sociale, abitativa e anche di razzializzazione, vale a dire di categorizzazione, di stigmatizzazione, di ghettizzazione istituzionalizzata. Questo a 10 anni di distanza è il quadro drammatico, disumano che emerge allo stato attuale. C'è stata anche una legge sul caporalato importante, non sono bastate, non sono servite? Noi nel corso di questi anni, quello che abbiamo avviato all'interno della piana di Gioia Tauro e non solo nella piana di Gioia Tauro, è stato il percorso, il processo di alfabetizzazione sui diritti sindacali e sociali. Il sapere di aver diritto a dei diritti non deve essere dato per scontato. Ci sono lavoratori, uomini e donne, che non sanno di avere diritto a dei diritti. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. Nel corso di questi anni, in particolar modo la 199 rispetto al tema del caporalato, quello che noi poniamo al centro è che non si può affrontare la questione della condizione dei lavoratori agricoli indipendentemente dalla provenienza geografica, e non ci dimentichiamo che ci sono ancora tuttora braccianti italianissimi che sono sempre sfruttati e percepiscono la paga misera quando i braccianti confinati all'interno della baraccopoli, prima e attualmente all'interno della tendopoli e altri ancora nei casolari sparsi per la piana. Perché lei, ecco, questo lo sottolinea sempre, il suo interesse, la sua attenzione va agli sfruttati indipendentemente dalla nazionalità. Quindi per questo motivo torno a dire che quello che è mancato e manca tuttora è una visione olistica di insieme, vale a dire di filiera, cioè dai semi a quanto i prodotti finiscono sui nostri banchi, ovvero sui tavoli dei consumatori, delle consumatrici. Cosa succede nel frattempo? Dalla semina, dalla lavorazione, dalla raccolta, dal trasporto, dalla trasformazione, dalla distribuzione. Ecco, la grande distribuzione organizzata non viene interpellata in alcun modo. Chi sono i proprietari dei semi? Chi decide i prezzi? Ecco, lì viene fuori che all'interno di quello stivale abbiamo il contadino, però sotto lo stivale abbiamo i braccianti che viene schiacciato. Ecco perché manca questo elemento. Non a caso dall'assassino di Soumaila Sakho portammo all'attenzione dell'allora ministro del lavoro Luigi Di Maio la necessità di mettere in campo uno strumento capace di creare un ambito di coordinamento tra i vari soggetti. Però lì manca la grande distribuzione organizzata. Preacher lights up a butt and takes a drag, waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Ci sono poi i proclami che partono dall'idea di affrontare il malessere della nostra filiera agricola, sottolineo filiera dal nostro punto di vista, raffigurabile nel soggetto chiamato caporale. Invece il tema dell'asta cioè al ribasso, che in questo caso vanno a colpire non soltanto il contadino, ma colpiscono i lavoratori, quindi la qualità stessa del cibo, è un tema che non viene quasi, ovvero viene dal punto di vista in modo marginale, messa al centro del ragionamento del come affrontare oggi il tema della condizione dei lavoratori. Io accanto a questo vorrei inserire un altro elemento molto importante, cioè i contributi comunitari della PAC, la politica agricola comunitaria. Quali sono i criteri? C'è un ambito di condizionalità rispetto all'accesso a quei finanziamenti, alle dotazioni finanziarie che arrivano dall'Europa alle regioni da una parte o in quanto contribuzione diretta? Ecco, questi temi, il tema della condizionalità, cioè tu hai accesso a queste risorse a condizione che ci sia rispetto dei diritti dei lavoratori, a condizione che il cibo che andiamo a mangiare non sia un cibo dannoso. Quindi, per la salute cercando di spiegare anche agli ascoltatori, quindi le sovvenzioni che vengono date all'agricoltura europea, lei dice ci dovrebbero essere a condizione che i lavoratori abbiano un trattamento dignitoso. Assolutamente, anche non solo dal punto di vista della paga oraria minima sindacale, ma dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Perché i sindacati non si perché i sindacati Abubakar, perché i sindacati non riescono a farsi sentire in questo? Lei fa allora, parte di un sindacato USB, ma gli altri, interpretando al plurale, posso parlare a nome del coordinamento lavoratori agricoli, del lavoro che stiamo portando avanti. L'istituzione oggi per la prima volta in Italia di un tavolo interministeriale che mette assieme le 20 le regioni italiane insieme a tutte le organizzazioni senza alcuna forma di discriminazione e di esclusione, capace di affrontare, dire individuiamo insieme tre obiettivi sulle quali lavoriamo tutti per dare dignità ai lavoratori della terra. Questo è il tema, è la prima volta che ciò si verifica, però non basta. Non basta perché ancora abbiamo nella piana di Gioia Tauro dei lavoratori che vivono tra le lamiere, nelle tendopoli. A Foggia siamo, è di ieri che 287 braccianti avranno una sistemazione temporanea fino alla data del 31 marzo in una struttura container o tende a fronte di una popolazione di oltre 1000 persone. Ecco, queste situazioni che non riguardano solo il sud, il meridione, ma riguardano anche altre tante zone dell'Italia nel profondo nord. Quale nord, ad esempio, è interessato? Noi abbiamo avviato nel Cuneese un percorso che riguarda la condizione dei braccianti, si parla sempre di Saluzzo, ma in realtà quei lavoratori non sono tutti a Saluzzo, ma sono anche negli altri comuni, lì in zona, ma riguarda ad esempio l'Agropontino, riguarda Latina, riguarda la Sicilia, riguarda ancora la Toscana, per non parlare ancora dell'Emilia Romagna, ecco. Sono lavoratori dove le caratteristiche dello sfruttamento, della mancanza di rispetto dei diritti sindacali e sociali si manifestano in modo non uniforme e quindi bisogna avere la capacità di ritrovarsi nel fango anche dal punto di vista figurato, affrontando quei temi e dando visibilità a quei lavoratori. L'ultimo elemento, se mi permettete, riguarda la condizione degli invisibili, quelli colpiti dai provvedimenti quali i decreti sicurezza. Assolutamente sì, ci fermiamo brevissimamente, c'è una piccola pausa, ma torniamo a parlare con lei di questi temi importantissimi tra pochissimo. I figli di Enea. Bentornati ai figli di Enea, questa sera siamo con Aboubakar Soumaoro, dirigente sindacale italo-ivoriano, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti. Esiste un paraschiavismo in Italia basato sui non diritti dei lavoratori, soprattutto i migrati? No, io quello che posso dire è che c'è una condizione che vede sotto lo stesso rullo compressore uomini e donne, come direbbe Gramsci, indipendentemente dalla provenienza geografica. È il mio punto di partenza di questa analisi, non andando a dare luogo a forme di stigmatizzazione sul piano qualitativo al suo interno di una massa di lavoratori ancora in una condizione di azione spontanea, però senza la massima consapevolezza del perché tutti si ritrovano sotto lo stesso rullo compressore. Non c'è il discorso da dire italiani sì, migranti sì, no, sono tutte persone schiacciate. Noi, i ragazzi nostri che si partono, cioè faccio l'esempio di questo, i riders sono i braccianti delle nostre metropoli che lavorano a Cotimo, come lavorano a Cotimo tante altre figure del lavoro cognitivo, come lavorano a Cotimo tanti giovani che incontriamo nel corso dei, che incontriamo ogni giorno nel nostro impegno sindacale e sociale, che raccontano cosa avviene nei nostri territori, vale a dire i precari del mondo dell'informazione che scrivono articoli anche lì a volte a Cotimo. Per noi la necessità qual è? Si tratta di intercettare queste figure nelle loro diversità di come si manifesta lo sfruttamento che vivono, dandogli una prospettiva. Quindi la nuova classe operaia, come ci racconta Ken Loach nel suo ultimo film Sorry We Missed You. Noi abbiamo queste condizioni oggi che sono italianissime, cioè l'inganno qual è stato in questi anni? Che tu italianissimo per natura non sarai sfruttato, invece l'attuale modello economico crea vulnerabilità, disuguaglianze, abbruttimento, sfruttamento, quello spirito di un modello economico che fino adesso non ha visto da parte della politica la capacità di individuare un modello alternativo, con uno spirito alternativo. Allora quando l'italiano si ritrova senza casa, si ritrova sfruttato, che prende 3 euro come prendeva 3 euro quasi più o meno Paola Clemente, quando Soumaila Sakho, quando gli altri braccianti in giro di diversa provenienza, viene da dire ma io non posso vivere queste forme di condizione nel mio paese. Il tema è che lì non c'è luogo di provenienza che regga. Io ho fatto tutto. Il muratore, l'idraulico. Questi siete voi? Tutto. Vorrei lavorare in proprio ora, essere il mio capo. Vediamo di mettere subito in chiaro un po' di cose, va bene? Ciao Rosie! Sveglia! Papà si infuria se non vai a scuola. Se non si sposta io le faccio la multa. No, Rosie! Ci mancava pure l'ascensore. Tu non lavori per noi, lavori con noi. Ho un contratto a 0 ore, mi pagano a visita. Vai, scansiona! Fatto! Ah, sì! Seguono ogni pacco. C'è una grossa differenza tra chi ha diritto di voto e chi non ce l'ha. Allora, la questione del diritto di voto c'è. Mi scusi, che caratterizzava le schiavi anche nell'antica Atene, il fatto non solo di essere schiavi, ma di non aver diritto di voto. Quindi c'è una differenza in questo, no? La cosa che vorrei dire è che oggi, allora, il diritto di voto va garantito a tutti. Ce lo insegnano le donne con le lotte, con le iniziative che hanno messo in campo. Dopodiché accanto a questo non dobbiamo dimenticare quanti italiani vanno oggi a votare, eppure il loro voto non si è quasi mai trasformato in un miglioramento dal punto di vista sociale, lavorativo, di prospettiva di vita per i loro figli, per dare una speranza di vita al proprio presente. Non c'è, perché c'è una mercificazione della popolazione. Si torna a parlare delle periferie quando siamo alla vigilia delle elezioni. Si parla, torna a parlare delle zone rurali quando c'è bisogno di raccattare voti. Thompson, Mom, fight against the blood and hatred in the air. Look for me, mama, I'll be there. But there's somebody fighting for a place to stay, a decent job or a helping hand. Maybe somebody struggling to be free. Look in the eyes, mama, you'll see. Abubakar, uno scorcio di lei sulla sua vita e sulla sua formazione. Lei è originario della Costa d'Avorio, ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza nel suo paese e poi è arrivato in Italia giovanissimo, no? Che cosa faceva in Costa d'Avorio? Era studente, era lavoratore? Studiavo e allo stesso momento, per poter andare avanti, andavo comunque in giro a lucidare le scarpe. Ecco, questo è però il sogno, la fame per la cultura, per lo studio, come ce la insegna la storia di Giuseppe Di Vittorio. Ecco, quella fame, quella sede è tuttora presente e vive in me. Perché è partito dalla Costa d'Avorio? Perché, per come sono partiti tanti dei nostri giovani, nella ricerca di una speranza, di una possibilità di trovare un luogo alternativo dove dare una prospettiva al proprio presente. Quando l'altro giorno sono stato a Londra, al Festival della Letteratura Italiana, mi sono ritrovato insieme a tanti dei nostri connazionali, giovani italiani e meno giovani, a guardarli negli occhi mentre stavamo lì a scambiare delle parole. Sentivo sulla mia pelle quella emozione, quel senso di spaesamento, di nostalgia che vivono alcuni dei ragazzi, delle persone che giungono in Italia. Guardando negli occhi, nelle loro parole, mi si sono riconosciuto. Ecco, quel sentimento comune non ha confine. Che lavori ha fatto per iniziare? Lei non conosceva la lingua, ovviamente, in quella fase, come la ricorda? Ricordo che dovevo comunque, come tante altre persone, imparare la lingua, e quindi i lavori sono i lavori, che le esperienze di lavoro che fanno oggi tante persone ancora peggio di me, e quindi vale a dire lavori saltuari, lavori stagionali, e quindi è questo, quindi lavorare. E poi come è diventato sindacalista? Quando è scattata questa passione? No, l'indignazione rispetto alle condizioni di non rispetto dei diritti che è sempre stato, e quindi mai essere differente, girare le spalle rispetto ai bisognosi, a chi esprime dei desideri, dei bisogni che non vengono soddisfatti o riconosciuti. Questo sentimento c'è sempre stato. Ecco, dare la capacità di mettere in connessione questo sentimento che c'è in noi, questa voglia che c'è in noi, insieme a quanto esprimono altre persone, è quello che chiamo processo di trasformazione collettiva. Il mio non è il mio, ma è il noi di molte altre persone, dove l'io viene messo a disposizione di un processo collettivo. A proposito di processi collettivi, adesso abbiamo assistito anche a questa rinascita dell'interesse politico, e parlo ai movimenti come quello delle sardine. Lei in questo senso è mai stato chiamato a partecipare alla vita politica del paese? È una cosa che le può interessare? No, quello che facciamo ogni giorno è politica. Intanto partiamo da questo. Quello che facciamo è politica, c'è politica sul piano dei diritti sindacali, c'è politica sul piano della partecipazione, cosa noi intendiamo oggi per mobilità sociale, cosa intendiamo per giustizia climatica ambientale, cosa intendiamo per giustizia sociale, per il diritto alla casa, cosa intendiamo per la condizione di pensionati che oggi le loro pensioni sono sostanzialmente una base di welfare per le loro famiglie. Ecco, rispetto a questi temi ho una visione, ho mio punto di vista, e quindi se questo è politica, dico è politica alta. Va bene, non mi ha proprio risposto se le interessa un impegno politico in prima persona, e ovviamente è vero che lei fa politica alta e fa politica a livello dei diritti dei lavoratori, però le hanno mai proposto un incarico? Sì, ma se le proponessero un ruolo in una formazione politica, lei potrebbe essere interessato? Allora, quello che ho continuato a dire è che quello che sto facendo e sto facendo in realtà è, da un punto di vista, se intendiamo la politica come la intendo io, alta, che non sia quella di trasformare la popolazione in merce prettamente elettorale, o è quella alta che permette di guardare i bisogni della società nella sua profondità, capace di dare speranza ai desideri delle persone, alle disperazioni. Se questa è politica, di fatto siamo lì sul campo. So che lei ha seguito molto la vicenda di Sumaila Sakho, lo dicevamo prima, ha anche avuto contatti con la famiglia, sappiamo che aveva dei familiari, aveva delle persone a lui vicine. In questo momento come stanno queste persone? Il processo va avanti, siamo in contatto con i familiari di Sumaila Sakho, con i zii di Sumaila Sakho, con la figlia, la compagna. C'è un processo che va avanti e stiamo seguendo, facendo di tutto per dare davvero, fare in modo che giustizia sia fatta, che tutta la verità sia in particolar modo stabilita, perché è di questo che dobbiamo parlare e che nessun lavoratore debba trovarsi in una condizione di sfruttamento, di ghettizzazione, che ha a che fare anche con l'elemento dello sfruttamento, della razzializzazione, e allo stesso momento che abbia a che fare con l'altro aspetto dello sfruttamento, vale a dire lo sfruttamento laddove lo Stato, anziché rimuovere quegli ostacoli, si limita a delle operazioni di maquillage, ed è quello che è successo e continua ancora tuttora a succedere. Però finalmente possiamo dire che gli sfruttati, i lavoratori, hanno comunque, continuano ad assumere un senso critico rispetto alla propria condizione, vale a dire il non sapere di avere diritto a dei diritti sta venendo sempre meno, perché finalmente si inizia a dire: io ho diritto a questo, ho diritto a quest'altro, e di conseguenza il tema dell'inserimento abitativo, il tema della mobilità, del trasporto, della mia condizione non può essere separata dalla condizione di molti altri giovani italianissimi e italianissimi, perché siamo tutti accomunati dagli stessi bisogni, a uguale lavoro, uguale salario. Grazie a Boubacar Soumaoro per essere stato con noi questa sera, grazie mille. Grazie a voi. Grazie anche a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo che potete partecipare, chiunque ci sia in ascolto in questo momento, a un concorso che si chiama Diari Multimediali Migranti. Le opere dovranno essere inviate entro il 30 di aprile 2020. È un concorso nazionale rivolto a italiani di origine o provenienza straniera. Quindi potete andare nel sito del concorso Dimmi 2020 per avere tutte le informazioni. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia. A tutti voi per l'ascolto. A sabato prossimo. Ciao.